La pubia de Caculuneta di Delio Tessa. Le crepada la pubia de Caculuneta. Te chi la turmenta in stulì se di uver la incricada e cric crac pata slonfeta lame la trada. Chi lunga e tirenta, dopo ben 200 anni che la ghera, l'è finida. Eppur, bella inciudada lì, la cascia ancamò, la ver non morì, adesche ghe chi primavera. Dem, na, la fa sens, guarde gno. Delio Tessa, La pubia de Caculuneta, interpretata da Annibale Covini Gerolamo. Testo di Delio Tessa in pubblico dominio. Interpretazione Annibale Covini Gerolamo, Creative Commons 4.0.